Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Consueta chiacchierata musicale del martedì sera su Blu Radio Veneto, quest'oggi un pochino in ritardo, 21:15 minuti. In regia ci sono io, Sergio Bortolami, e dall'altra parte del vetro c'è Maurizio Calzavara. Maurizio, buonasera. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Chi abbiamo questa sera con noi? Stasera abbiamo Alessandro Ducoli, che è un cantatore esattamente bresciano, in provincia di Brescia, a Breno, vero Alessandro? Buonasera Alessandro. Ciao a tutti. Ciao Alessandro, sei nato a Breno, in provincia di Brescia. Alle Balotte. Ecco, esattamente. Che non è un insulto. Non è un insulto. Quartiere, un quartiere. Io sto nella periferia della periferia. Ah, ho capito. Benissimo. Leggendo la tua biografia, ci siamo messi d'accordo. No, ci siamo sentiti un po' prima e volevo sapere il perché. Tu hai due sorelle che ti hanno condotto sulla musica melodica degli anni 70. E non eri molto soddisfatto di questo. Dimmi allora, com'è stata la costruzione musicale tua praticamente? In una famiglia di abitudini marziali, quindi le due sorelle, c'era una sola radio in casa e quindi ero obbligato ad ascoltare tutta la musica melodica anni 70, delle atrocità ineguagliabili. Che sia stato formativo. Sono un potenziale serial killer, mi piace. Soprattutto per colpa dei collage, però quello che ricordo con più, diciamo, terrore è Christian. Ah, Christian? Mamma mia, trash italiano. Potrei anche voler bene conoscendolo in altri contesti, però il ricordo di quelle canzoni è stato terribile, no? Le mie sorelle sono buonissime. C'era una radio sola e Baglioni eccetera imperversavano, insomma. Mentre i miei amici andavano al Monster of Rock, io facevo una sorta di classifica casalinga del Festival di Sanremo. Il cantagiro. Sì, una cosa terribile. Avevamo una schedina tutti, anche mio nonno aveva la schedina, non mi fregava niente, mie sorelle obbligavano a votare. E non mi ricordo chi avevo fatto vincere io. Mi sembra i New Trolls con una canzone che si chiama Faccia di Cane. Beh, insomma, i New Trolls era un bel gruppo, però. La canzone non è stata capita a Sanremo, era un buon pezzo, dai Alessandro. Ero già sulla buona strada se avevo individuato quelli. Certo, sull'ottima strada, diciamo pure. Poi hai lasciato la musica melodica degli anni 70 e hai comprato una chitarra, è così oppure no? No, ho comprato un Walkman. Un Walkman, dopo la chitarra, la prima il Walkman, sì. Di emancipazione dalle autorità familiari, il Walkman e una cassetta di Madonna. Una cassetta di Madonna che mi ricordo fosse una sorta forse era Like a Virgin o quello prima, non mi ricordo. E poi dopo, quando sono andato a scuola, alle superiori, insomma, per forza di cose ho dovuto sbirciare nelle discografie dei miei compagni di scuola. Sono fortunatamente arrivati i Clash, Springsteen. Hai sbirciato bene allora. Sono passato da un cantastore dei giorni nostri di Baglioni a Nebraska, è stato forse un bel salto. Decisamente. Hai avuto però una bella situazione musicale con un gruppo, Bacco il Matto, sì, è stata veramente un'esperienza molto molto, diciamo, interessante. C'era questo chitarrista che, diciamo, era il 50% artistico della band e che adesso vive a Pordenone, vende Harley Davidson. Però ho citato questo aneddoto perché per colpa delle Harley si è sfasciata la band, anche se comunque sono scelte di vita che sono difficili da controbilanciare con i concerti a sabato sera nelle birrerie. Però è stato bello, abbiamo avuto anche una collaborazione con Chip Taylor che ci ha regalato un brano, che si era innamorato del nostro primo disco, forse non del cantato perché era decisamente stonato, però gli piaceva l'energia, insomma, dal vivo eravamo veramente forti. Questo sì. Ricordo che questo primo disco di Bacco il Matto, che qui abbiamo nella nostra discoteca, l'abbiamo messo un sacco di volte, era un gruppo decisamente tosto nel senso positivo del termine. Avevamo un produttore veneto, Roberto Ortolan, che lavorava con la Hacker Music, che si chiamasse così. C'era... Sì, esatto. C'era Bubola che faceva un po' da chioccia di tutti i gruppi, c'erano gli Extra. Sì, sì, esatto. E quindi Ortolan, insomma, ci aveva prodotto il disco, aveva dato il produttore artistico, poi niente, le cose sono andate per ognuno per la sua strada, però ecco, con Nicola Bonetti, il chitarrista, mi sento ancora praticamente ogni settimana. Lui dice: rimettiamo in piedi la band, che di fatto non si è mai sciolta. E tu cosa dici? Io dico subito, però i suoi impegni di lavoro sono sempre troppo gravi e quando hai un'attività così avviata è difficile staccare, perché per fare un buon disco ci vogliono un paio di mesi di lavoro. Certo. Però, però l'idea serpeggia sempre, Alessandro. Come? L'idea serpeggia sempre, però. Certo, avevamo anche il titolo del terzo disco che avevamo iniziato, che si chiamava Metodo, Sistema e Condizioni. Era un disco sul sull'utilizzo della dinamite per cercare... No, era un disco abbastanza festaiolo, insomma, però ci sono degli appunti, non è stato neanche registrato un demo, ci sono degli appunti di chitarra e voce, basta. Ok. Quindi potremmo rispolverarlo. Certo, come no. Allora, i due dischi con il Bacco e il Matto, che hanno, ripetiamo, ottimi lavori, hai cominciato una carriera solista praticamente. Ma la carriera solista era già iniziata, diciamo, parallelamente all'attività di Bacco e il Matto, perché avevo Bacco e il Matto, io ho messo in piedi la band per promuovere il mio primo disco solista, che si chiamava Lolita. E quindi poi diciamo che le due cose sono proseguite parallelamente, e quando poi la band è sciolta mi sono dedicato, diciamo, in maniera un po' più completa alla questione solista. Ho fatto un paio di bei dischi subito, un paio di bei dischi lo dico io, perché lo prendevo con beneficio di inventario. Un paio di belle esperienze discografiche, mettiamola così, anche Io non posso entrare, che è un disco a cui sono affezionatissimo, e poi il disco delle taverne, che è stato un disco un po' troppo lavorato, per cui alla fine non ci sono più molto affezionato, perché mi ricordo un periodo veramente estenuante per far uscire questo disco, però con una bellissima band con cui ho lavorato per 4-5 anni, poi ci siamo divisi perché non entrava il cash. Avevamo poche serate, erano pagate poco, era tutta gente che doveva vivere di musica, e quindi hanno scelto, diciamo, soluzioni un po' meno impegnative dal punto di vista artistico, ma più concrete dal punto di vista, diciamo, dello stipendio. è importante quello, nonostante tutto. Mi hanno lasciato solo, chitarra e armonica. E arrivando a questo nuovo disco, Piccoli Animaletti, io ho visto le recensioni. Sono moltissime recensioni, tutte molto positive, Alessandro, decisamente molto positive. Sei soddisfatto di questo sicuramente? Perché il disco è stato una lavorazione difficile, che erano 14 brani, e quindi alla fine senza una produzione che metta un po' in ordine alcune cose si rischia di perdere il filo del discorso, però siamo partiti bene con una, diciamo, con una backing band solida con Ella De Bandini alla batteria e Max Cabanizza al basso, e poi dopo, insomma, la realizzazione è stata anche più un gioco che altro. È un bel disco, perché è un disco abbastanza maturo, però in cui l'obiettivo era quello di fare comunque canzoncine, non un disco troppo impegnato, mi sembra riuscito. Insomma, abbiamo fatto un disco leggero, senza la connotazione più negativa che si può dare a questo aggettivo. Ok, allora cominciamo ad aprire la finestra, come nostra consuetudine, dal primo pezzo, un pezzo bello tosto, secondo me, interessante, anche musicalmente. Lo vuoi presentare prima o lo sentiamo? Lo sentiamo adesso, dai, lo presentiamo dopo, ok? Poi ci vengono le idee. Così, poi ci vengono le idee, perfetto. Blu Radio Sera. posta i vostri occhi sulla nostra malura. Liberate la mia bella creatura, lasciatela volare. Che ha imparato a capire, anima da non controllare mai, chiusa sempre nel cortile. Liberami la catena, la pena patisce tutta la mia schiena. Guardate come siamo tristi e alla sera si spera che ci porti via l'anarchia. Togliete quelle mani sporcate di niente, riempite della solita unità di misura. Ripeto la richiesta di restare da soli, senza i vostri occhi sulla nostra malura. Liberate la mia bella creatura, lasciatela volare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. In Blu Radio Sera, questa sera, in questo martedì 3 agosto 2010, stiamo chiacchierando con Alessandro Ducoli e Maurizio. Sì, un pezzo abbastanza strano, Alessandro, musicalmente duro, quella chitarra abbastanza lisergica nel finale. L'idea com'è stata, Alessandro, di questo vero pinto gioco chitarristico nel pezzo? Allora, questi brani qua io li scrivo insieme a Mario Stivala, che è un chitarrista con cui collaboro da sempre. Lui ha un approccio abbastanza vario sulla chitarra, cioè si muove su diverse atmosfere. La Malura faceva parte di un blocco di canzoni che noi avevamo pensato per un ipotetico live proprio di rock blues. C'è qualcosa che a me ricorda i Counting Crows, di questo, quantomeno nel riff. Ed è un brano che mi è sempre piaciuto. Mi piaceva iniziare il disco in maniera proprio scura. Sì, proprio anche nella voce, secondo me, cosa dici? Come? Anche nella voce abbastanza scura. Sì, quello sì, è stata proprio una scelta, diciamo, di produzione, perché il disco chiude questa trilogia, diciamo, dedicata al territorio. Adesso me la metto lì così, anche se può sembrare una pippa. È una trilogia dedicata al territorio che avevo iniziato nel 2005 con Brumantica, e poi ho proseguito nel 2008, mi sembra, con Artemisia Absinthium. Questo è il disco zoologico, questo è il capitolo zoologico che chiude la trilogia, e quindi avevamo pensato di utilizzare questa canzone per descrivere un po' il concetto di malura, che è quella, diciamo, quella sensazione che provano gli animali allo zoo, che non è né rabbia né paura né niente, è una sorta di stralunato modo di essere, una roba simile, un po' difficile. Mi sono ingineperato. No, secondo me c'è un motivo. Questo è il pezzo che abbiamo sentito. E adesso chiaramente non si può vedere la copertina, ma la copertina dell'album che adesso ha Sergio davanti corrisponde al discorso zoologico, secondo me. C'è qualcosa. Sì, la copertina, tra l'altro, è un quadro inedito di Antonio Ligabue. Esatto. Ho iniziato a ragionare sul capitolo zoologico, ho pensato dal primo momento in avanti ai quadri di Antonio Ligabue, e un anno e mezzo fa, insomma, mi sembra, c'è stata una mostra a Milano, Palazzo Reale, hanno riunito il maggior numero di quadri possibili di Ligabue. Io sono andato per prendere un po' di appunti e per prendere alcuni spunti, e ho visto questo quadro e ho detto: questo deve essere la copertina del mio disco, assolutamente. Poi ho preso il catalogo delle opere complete, un mattone costosissimo, però una spesa assolutamente dovuta, e quando sono arrivato a casa non c'era il quadro, e quindi sono tornato alla mostra perché a sto punto ho detto faccio una fotografia, rubo uno scatto, anche se non si poteva. Quando sono arrivato alla mostra, il curatore della mostra mi ha riconosciuto e dice ma scusi, ma lei non era qui la settimana scorsa. Allora gli ho spiegato tutta la faccenda, lui mi ha chiesto di mandare i dischi al centro studi Antonio Ligabue così potessero valutare la cosa, e dopo mi hanno detto può farne quello che vuole, mi hanno dato loro le scansioni dei quadri. È stata una cosa bellissima, ti ho dato l'ok praticamente. Dello spirito di Ligabue c'è molto in questo disco, è un artista che mi è sempre appassionato. Sì, esattamente, anche musicalmente secondo me, anche se chiaramente Ligabue è un artista col pennello, tu sei un artista con la chitarra, anche musicalmente sì, c'è quello spirito secondo me, è una cosa abbastanza positiva. Cosa dici? Cosa pensi? Sì, io sono, a parte che dicevamo prima, ho studiato a Padova, ho studiato scienze forestali, quindi sono abbastanza legato alle questioni che riguardano natura e territorio, e la zoologia mi ha sempre affascinato sotto tutti i suoi aspetti, non soltanto quello diciamo più facile legato al rapporto animali uomo eccetera, ma anche in ogni suo aspetto, dagli insetti a tutto quanto. E questa cosa in Ligabue c'è, ci sono dei bellissimi episodi di zoologia nei suoi quadri. Certo, benissimo. Parlando prima, abbiamo citato il discorso del concept album che praticamente esiste in questo disco. Che difficoltà hai avuto per fare un concept album? L'idea di partenza, abbiamo sviluppato l'idea della natura, però non era semplice fare un concept album, almeno adesso. Una volta si usava di più, adesso molto meno. Ma ti dico, questi tre album che parlano del territorio sono più o meno legati a un film, l'idea del concept. Sì, è una cosa che mi viene facile avendo studiato e lavorando tuttora per il territorio. È una cosa che insomma non voglio dire che è la mia vita perché mi sembra un'altra pippa, però ecco, mi viene abbastanza facile ragionare in termini di concept album. Questo era volutamente un concept perché doveva chiudere una trilogia. Poi ecco, il problema di questo disco è stato quello di riuscire a rendere un disco omogeneo con 14 brani completamente diversi tra di loro, che avessero comunque un filo conduttore, e almeno a detta di molti ci siamo riusciti, quindi credo che questa cosa sia la nota veramente positiva. Mettere dal vivo un disco simile non è semplice secondo me. Molto difficile a mio parere. Io ho pensato più di una volta sentendo questo tuo disco che presentare un disco dal vivo di questo genere è molto complicato. Allora, con Brumantica e con Artemisia ho fatto diversi concerti con i Bartolinos, che è la band diciamo di amici più cari dal punto di vista musicale, e già con i Bartolinos c'erano grosse difficoltà perché non ci sono soldi per pagare i musicisti, è molto difficile trovare le serate eccetera eccetera, per cui già quando abbiamo fatto Piccoli Animaletti l'idea era quella comunque che avremmo promosso il disco in duo col pianista, io adesso giro con il pianista Andrei Kutov, trasformato diciamo più in teatro canzone che in concerto di canzoni, e secondo me rende, insomma, certamente i suoni non sono così così complicati, insomma, piano e voce. Certo, si restringe il campo. Hai citato i musicisti, c'è cioè Ella De Bandini, che ricordiamo è stato da sempre il percussionista di Francesco Guccini e di tanti altri personaggi. C'è anche Michele Gazzi al violino. Eh sì, il Gazic è stato, lui è tornato a vivere a Brescia, per me è sempre stato un mito perché lui suonava con Jay Oakes, ha suonato con Michel Shock, certo, tutta musica che in più era il violinista di Bubola, io l'avevo conosciuto ai tempi, però ci eravamo conosciuti di sfuggita, poi ci siamo incontrati in occasione del disco di Beppe Donadio, che non so se conoscete, è un cantautore bresciano molto bravo. Di nome sì, però non l'ho mai sentito praticamente. Molto bravo, un pianista, un cantautore pianista molto insomma, mi piace molto, mi ha fatto fare un paio di cose nei suoi dischi, ero contentissimo. Ho conosciuto il Gazzi, cioè, una sera mi ha detto, ah, mi piacerebbe suonare il tuo disco, gli ho detto bene. Insomma, ho chiamato 15 MP3, gli ho detto, scegli quello che vuoi tu, e lui ha scelto due brani dicendomi, guarda, ti faccio questi qua perché siamo amici, però secondo me dopo diventa un po' troppo presente il violino. Quindi lui gli ho detto, guarda, fai tu, hai carta bianca. Personaggio straordinario, Michele Gazzi. Sì, sì, sì, l'ho conosciuto, è venuto qua a suonare quando assieme c'era anche Bubola, tempo fa, e mi parlava, si già parlava il discorso dei, dopo dei J-Hawks, delle sue partecipazioni, del suo amore per l'America, determinata America, determinato sound. È stato fortissimo perché era appena tornato dal Joshua Tree Park, dove Mark Olson dei J-Hawks ha una veranda, quella classica veranda texana dove si suonano quelle chitarre meravigliose. Aveva registrato il nuovo disco di Mark Olson lì al Joshua Tree Park e neanche tre giorni dopo era in studio con me in provincia di Brescia, nella zona industriale. Tutta un'altra cosa, dici. Ma no, no, tutta un'altra cosa, sempre così, però il filo conduttore esiste sempre, Alessandro. Certo, certo, quello sì, anche lui non si è mostrato particolarmente dispiaciuto di non essere più al Joshua Tree Park, o certo. Essere suonato volentieri anche nel mio disco. Poi ecco, io so essere simpatico, quindi si divertono i musicisti che suonano con me. Perfetto, adesso scegli te un altro pezzo dall'album a tuo piacimento. Scelgo il secondo, mi piace molto. La seconda traccia, benissimo, che si intitola? Si intitola I miei 100 difetti e mi piace molto perché è molto leggera. Ok, adesso la sentiamo e poi la sviluppiamo come abbiamo fatto con il primo pezzo. Perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Solita cosa, la solita storia, sempre uguale, quasi abituale, ancora una volta, ancora sempre, voglio che mi dici cos'è. Odio questa noia, gioia obbligatoria, mai è necessaria. Bella storia, odio la mia corta memoria, dimmi che cosa ti aspetti dai miei 100 difetti. Solita cosa, la solita storia, sempre uguale, quasi abituale, ancora una volta, ancora sempre, voglio che mi dici cos'è. Odio fare senza, riduce la residua pazienza, mette il cattivo umore, il difetto di un cuore. Passeri e passere che assaggiano il vento, due gocce di acqua, volano e scendono a cercare la terra, il pane. La solita storia, sempre uguale, quasi abituale, ancora una volta, ancora sempre, voglio che mi dici cos'è. Solita cosa, la solita storia, sempre uguale, quasi abituale, ancora una volta e ancora sempre, voglio che mi dici cos'è. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ancora con Alessandro Ducoli e stiamo parlando del suo ultimo lavoro. Maurizio. Sì, stavamo dialogando io e Sergio prima. Recitato o cantato questo pezzo, Alessandro? Sei d'accordo? Sì, mi piace molto perché è proprio leggero, mi piaceva creare subito questo contrasto dall'attacco con la Malura, esatto, questa sonorità un po' cubanist, se vuoi, con questo piano un po' riverberato. Bello, mi piace, molto, molto easy. E Kutov fa parte del Leone, il pianista? Sì, Kutov è il pianista con cui adesso mi muovo, diciamo, dal vivo in duo, e con Andrei lavoro sempre da un sacco di tempo. Ci siamo conosciuti nel 95 quando ho registrato Lolita, il mio primo disco. Poi ci siamo separati perché eravamo pericolosi insieme. In che senso? Eravamo una coppia insieme. Ci siamo rincontrati nel 2005 quando lui è diventato astemio, un salutista assoluto, e adesso mi mette in riga lui, mangia delle robe strane francesi per dimagrire ogni volta. Le alghe. Buono, ben capito, lui mi spiega. In più è la parte, diciamo, è diventata la parte ordinata, per cui io, che ho bisogno di conservare un certo livello di disordine per star sereno, riesco a bilanciarmi bene con lui. È molto professionale, poi cavolo, è un russo. È un russo, è strano però, di solito... Cioè ha cambiato regime, probabilmente. Regime, sì, è un nazista, possiamo dirlo. È cattivissimo. Stiamo preparando adesso uno spettacolo insieme, una sorta di teatro canzone dedicato al mondo dell'edilizia, diciamo, delle province di Brescia e Bergamo, con una velata critica, però sostanzialmente abbastanza ridicolo e abbastanza allegro. E un mese e mezzo di prove quasi tutte le sere, è stato estenuante per 10 canzoni. Neanche Pink Floyd hanno lavorato così tanto per dare... E lui, cioè, praticamente lui ti dirigeva, ti diceva, ti dava i tempi praticamente, o no? Sì, i tempi, assolutamente, in questo modo. Sandro, ritmo non va bene. È una frase incubo per me questa, oppure sei stonato. Certo, lui è abbastanza preciso da quel punto di vista. Quindi un tedesco più che un russo. Abbiamo deciso di fare gli arrangiamenti di Piccoli Animaletti con Mario Stivala. Il primo commento è stato questo. Il mio commento è stato: Andrei lo coinvolgerei in corso d'opera, perché sugli arrangiamenti rischiamo di perdere un po' il filo, così, perché sai, c'ha un po' i sentimenti di un microonde. E Mario Stivala mi ha risposto: c'ha i sentimenti di un microonde spento. Per cui, ecco, con Andrei è la parte, diciamo, è il motore, lui deve muoversi quando è acceso e poi bisogna spegnerlo, perché altrimenti non si ferma più. Quindi sul palco te e Andrei spesso e volentieri? Sì, sul palco poi si crea questa sorta di spettacolo cabarettistico, con io che insulto la sua infanzia russa, lui che insulta me, insomma, in senso buono. Sì, certo. L'interplay è abbastanza giocoso e funziona. Mi sto divertendo molto di più in duo che con la band, perché con la band ero vincolato a seguire un po' troppo gli schemi degli arrangiamenti che avevamo fatto, invece con il duo riesco a chiedergli di fare un pedale, io vado avanti a raccontare aneddoti, eccetera, insomma, bello, mi sto divertendo. Ecco, spiega ai nostri ascoltatori cosa vuol dire di fare un pedale, cioè musicalmente parlando. Un pedale è sostanzialmente proseguire su un accordo o due, insomma, in modo tale che la musica non rimanga una sorta di sottofondo ritmico con un accenno di melodia, però senza fuorviare l'ascoltatore da strane soluzioni melodiche. Quindi lui suona due accordi e io sopra ci parlo, racconto la storia delle mie sorelle che ti avevano convinto a sentire Christian. Esatto. Esattamente. Ok, andiamo avanti, sempre parlando dell'album, un altro pezzo a tua scelta. Visto che abbiamo parlato di Andrei Kutov, io farei il terzo brano, perché è una suite che lui aveva scritto qualche anno fa, e cortissima, però mi era piaciuta moltissimo, e abbiamo fatto questa canzone brevissima che si intitola Una Silvia, e la musica l'ha scritta lui. Questo è l'unico brano dove, no, ce n'è un altro dove lui è stato, diciamo, l'arrangiatore, però questo è, secondo me, veramente un brano riuscito. Perfetto. Blu Radio Sera. Chip, chip, lei è un'ala nell'aria. Io canzoni al silenzio che tace. Chip, Chip, lei si sposta sul ramo. Io, no, non ti posso toccare. Anima in fiore non soffre d'amore, offre canzoni al silenzio che ascolta. Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:46 Blu Radio Veneto, sempre Blu Radio Sera, le nostre chiacchiere musicali del martedì insieme a Sergio e Maurizio, e dall'altra parte del telefono abbiamo Alessandro Ducoli. Maurizio. Sì, un critico Alessandro ha scritto, è un po' caposelliano in senso positivo del termine. Cosa dici? Non lo so, non ascolto Capossela. Ah, non lo sento, non ascolto. Non ascolto Capossela. Noi quando abbiamo fatto questo brano qui, allora Andrei, diciamo, era un periodo in cui stava suonando molto Satin, per cui era più anni 30 come, sì, come collocazione. Poi a me piaceva la leggerezza di questa suite, il fatto che fosse corta mi ha permesso di descrivere in 5 righe quello che volevo con questo brano. Insomma, è un brano che a me piace molto, lo facciamo anche dal vivo. Ma lo fate in questa maniera o lo sviluppi di più? No, lo presento così, è come a quelli che hanno visto Frankenstein Junior. Sì. Quando Frankenstein si fa insegnare dalla bambina a buttare i petali nel pozzo, a mandare il bacetto e fare ciao ciao con la mano. È una sorta di... quasi un ABC della musica. A me piaceva il fatto che una persona grossolana come me, perché ho una stazza abbastanza appariscente, potesse raccontare in tre frasi la bellezza di un piccolo uccellino che sta dentro in una siepe. Insomma, queste robe qui a volte mi succedono, soprattutto la domenica mattina nei risvegli obbligati. Potrebbe essere una colonna sonora questa piccola suite, questo piccolo, sì, pezzo. Sì, dimmi. Si adatta molto a Frankenstein Junior. Sì, sì, esattamente. Quei film di quel genere là, praticamente, un film nero, bianco e nero, secondo bianco me. Bianco e nero, sì, infatti. Tu hai visto il film, che l'hanno visto tutti. Certo. Poi quando butta il petalo e la bambina gli chiede di mandare il bacetto e lui e poi con la mano, che con la manina lei gli dice, e lui c'ha una mano enorme che sembra una vanvomere. E mi piaceva questa cosa, questo accostamento tra questa figura molto, molto appariscente, molto grossolana, e la bambina dolce che gli manda un petalo di margherita nel pozzo. È stato così, un'idea. In più, ecco, per dirtela tutta, Andrei mi ha mandato una volta un disco con su 50 basi musicali fatte da lui. Ne ho salvate due, una era questa. Come mai gli altri 48 le hai buttate? Perché sono arrangiamenti, li abbiamo definiti arrangiamenti da crociera, musica da crociera. Fa queste canzoni per big orchestra. Gli ho detto, guarda, se vuoi fare un disco così, l'unico che può cantarlo è Tom Jones, ma non so se ti dirà di sì. Benissimo, ok. Quindi si ispirava, che genere si ispirava? La musica forse della Russia, dei paesi dell'est, oppure no? Ma lui ascoltava i ricchi e poveri. Ah, cantava i ricchi e poveri. Lui ascoltava i ricchi e poveri, lui è di Rostov, sì, quindi a sud della Russia, dove gli italiani vanno a comprare le mogli. Ho visto una volta un servizio in televisione che c'è un'agenzia che ti procura le mogli a Rostov. E quindi lui dice che, essendo un luogo di villeggiatura, andava molto a musica estiva, eccetera, e lui ascoltava i ricchi e poveri, Toto Cotugno, quella roba lì. Anche Albano, probabilmente. Anche Albano, una volta mi ha suonato Mamma Maria, lì non mi ricordo come, sì, si chiama, un gattone nero con gli occhi blu. Sì, Mamma Maria dei ricchi e poveri, sì. I ricchi e poveri. No, dopo lui ovviamente, essendo pianista di ispirazione classica, ha suonato tutta la roba obbligata dai russi, Rachmaninov, quella gente lì. Novecento e novecento praticamente. Sì, e inoltre poi dopo suonava in questa big band di jazz, per cui facevano tutti i super standard anni 50, Duke Ellington, tutte quelle robe lì. Quindi è un po' più confuso di me negli arrangiamenti. Te credo, con i ricchi e i poveri. chiudiamo il cerchio con Christian. Dovevate per forza trovarvi voi due. Vabbè. Cosa dice Alessandro? Giusto? Beh sì, stasera avevamo le prove, gli ho detto che non c'avevo voglia. Ho detto Andrea, non ho voglia stasera, sono stanco, ho lavorato tanto. Allora ci vediamo domani, se andiamo a sentire Patti Smith a Brescia. Ah però, altro che ricchi e poveri, un'altra cosa. E poi mercoledì e giovedì andiamo, facciamo le prove che abbiamo saltato stasera. Però il russo è strano, perché ho suonato una volta con lui, sono andati a sentire Santana. Sì. E quando Santana ha iniziato, il suono più classico era Santana, uno dice per forza. Lui era commosso, lui ha sentito il suono della chitarra suonata da lui, si è commosso. Ho visto il russo commosso, gli ho detto questa cosa la dirò a tutti, così sei sputanato, sei obbligato a smettere di insultarmi quando facciamo le prove. L'ha commosso Samba Patì probabilmente, sono classico, il riff classico del grande Santana. Attacco di chitarra, lui si è commosso, dice che per lui musica è questa. Santana. Benissimo. Dimmi. Non stavo ridendo, ah, scusa. Okay. sono le 21:52. Alessandro, un altro pezzo, sempre a tua scelta dall'album. Un altro brano a mia scelta? Sì. Allora, un brano fatto e finito da me. Ecco, sì. Che è quello. Allora, ce n'è uno, siamo un germano irreale, però non so in che punto della... Adesso Sergio... Un problema. L'ultimo, però è in dialetto maccheronico. Però l'ultimo... Il Lacabue è un po' dedicato a un po' cupo. Chiudiamo in sì, ma abbiamo tempo ancora, Alessandro. Abbiamo ancora 20 minuti. Allora suoniamo questo ultimo brano. Non ho capito adesso che nel libretto sono sparsi. È un po' complicato il libretto, Alessandro, effettivamente. Come li faccio io, no? Ogni tanto qualche sassolino sul sentiero mi perdo. Però l'ultimo, guarda, tu fai andare avanti la scaletta, deve essere il 14, fa vedere quello che... Le renne sulla neve perenne. Sulla neve perenne. Esattamente, sentiamo quello allora. E allora andiamo a sentirla. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Santa ne dal parvol dei, persa la crapa, la resta la giaca, santo Natale. Santa pazienza, la melaga, mo senza la disca, la notte, la ulmiga, beh, oggi. Santa pazienza. Santo ne dalla fa mal, santo ne dalla fa mal. Santo cattivo, fatica, capì, persa la gamba, attaccata alla banda. Santo cattivo. Santa sfortuna, le bianca, la luna, le negra, le una, le hempera, che la santa sfortuna. Santo ne dalla fa mal, santo ne dalla fa mal. Santa miseria, la quinta, la storia, la gira, la olta, le curta, le storta. Santa miseria. Santo demonio, goit la paura, Antonio le ura, de daga la sciura. Santo demonio. Santo ne dalla fa mal, santo ne dalla fa mal. Santo ne dalla fa mal, santo ne dalla fa mal. Santo ne dalla fa mal, santo ne dalla fa mal. Santo ne dalla fa mal, santo ne dalla fa mal. Santo ne dalla. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Le renne sulla neve perenne con Alessandro, la voce di Alessandro Ducoli. Maurizio. Sì, un divertissement in bresciano, si dice così, in bresciano, un dialetto tuo. Sì, esatto. Sì, dialetto bresciano, che è improponibile come tedesco, bergamasco praticamente. Sì, siamo confinanti, ovviamente c'è assoluta rivalità, per cui ognuna delle due province rivendica. Beh, ma si capiva comunque. Sì, sì, ho giocato su sta cosa perché è un periodo che è tornato di moda la canzone dialettale, che io non è che abbia mai amato tantissimo. Però a Brescia si vuole la canzone dialettale, l'ho detto, la faccio anch'io, amici. Non siamo più amici, non siamo. Ho fatto questa canzone per una compilation dedicata a Natale e insomma non è stata capita fino in fondo. Natale padano. No, è Natale Camuno questo. Ah, è Camuno. Santo ne dalla fa male. Sulla rima Santo Natale fa male. Ovviamente parla delle signore che accompagnano il Natale. Ah, no, ho capito. Signore. ho capito. Per cui non è stata capita, non sono più amico, non mi vogliono più. No, ecco, queste sono le canzoni che scrivo io e che arrangio io e che su cui ho carta bianca. In ogni disco io lascio 2-3 spazi a questi brani di un minuto, che sono quelli che io suono, canto e produco di mia iniziativa, di mio cervello. Il risultato è questo. Dopo sono obbligato a chiedere a Mario Stivale e Andrei Kutov di fare un po' più i seri per ritrovare un la retta via, possiamo dire questo. Via. Esattamente. Dopo ne sentiamo un altro dei miei che dura un minuto anche quello. Ah, poi c'è questa bellissima cosa che a me piace, che i dischi durino poco, perché sono... Infatti volevo chiederti il perché, cioè secondo me dipende da te, dal tuo carattere, non so se sei semplice, una persona stringata oppure... Deve essere un po' la radiografia dello status sociale, e oggi canzoni corte rispecchiano molto di più la realtà delle cose. Le suite di 8 minuti degli anni 70 sono abbastanza fuori luogo, insomma. Sì. Se è un disco di canzoni, poi se è un disco di musica o comunque in cui la canzone è a servizio di altre cose, allora c'è più libertà. Però io un disco che dura 40 minuti, 45, non riesco a sentirlo. Si ascolta, a parte chi lavora in radio ovviamente, però la gente normale ascolta il disco in macchina nel tragitto che ti separa da casa al lavoro, insomma. E quasi sempre sono compilation fatte, ecco, con brani e artisti diversi. Adesso sto preparando il nuovo disco, si chiama Sandro Piteco, e sono 30 canzoni e dura 36 minuti. Come i Ramones, il punk praticamente. Praticamente sì. Liberatori Ramones. Esatto. Dunque, doveva avere una caratteristica, cioè, però hanno ambientato il punk. Riuscire a raccontare quello che devi raccontare comunque in un minuto. Alcuni lo chiamano dono della sintesi, altri dicono non avevi niente da dire e allora è già buono che hai parlato poco, altri lo chiamano in un altro modo. A me piace, insomma, per me una canzone dopo 2 minuti e mezzo già mi stanca. Ho capito. A me ricordano, non so, qualcosa, non so, Enzo Iacchetti che faceva quelle mini storie in pochissimi tempi. Ah, sì. Ti ricordi, Alessandro? La scuola milanese, più o meno, adesso non so se i milanesi sono contenti di questa cosa, è diciamo la scuola da cui provengo, insomma sono cresciuto con Iannacci, Cocchi Renato, con Svampa, i Gufi, insomma quel tipo di canzone abbastanza surreale, quindi questa canzone qui si rifà molto a certo. Iannacci, dopo non so se loro sono contenti di sapere questa cosa. Iannacci non l'ho mai conosciuto, però penso che secondo me gli potrei essere simpatico. È abbastanza fulminato anche lui. Sì. Mamma mia! Un genio colossale. Avete mai sentito la canzone A Lourdes cantata da Cocchi e Renato? No, non me la ricordo. Quella non me la ricordo. Assolutamente. Ne ho sentite tante, però quella non mi viene in mente. Quella è veramente follia allo stato puro. È proprio incredibile come Milano si sia persa. Dal punto di vista musicale non mi piace più Milano, secondo me non è neanche più interessante dal punto di vista artistico, cioè non ci sono episodi diciamo di livello europeo come in teoria una capitale come Milano dovrebbe. E ci sono dei gruppi abbastanza interessanti, però nonostante tutto gruppi... Sì, però nonostante tutto la scuola di Iannacci, Gaber e di quella gente lì era straordinaria, è uscito anche un premio Nobel da quella combricola, certo. Per cui forse questo un po' a Milano manca. C'è un tentativo di ritorno, eccetera, però a mio avviso non è supportato dall'ascoltatore. Forse è musica che ha fatto il suo tempo ed è giusto lasciare spazio a qualcos'altro. Io forse sono più nostalgico di altri e rimango lì, però ecco, non avendo produzione, io non avendo produttori, non avendo vincoli, insomma, si può dire faccio quello che voglio. Certo, certo. A proposito di questo, io sarei molto contento, non so, penso anche a te, di sentire quel pezzo Dialogo di guerra con cui suoni assieme a Michele Gazzicchio. Esatto. Che è un pezzo bellissimo, secondo me. Questo è l'unico brano, questo è il brano che dura di più, però è un brano che meritava un po' di serietà in più. Credo che sia l'unico brano veramente serio del disco. Sì, e... puoi ricordarlo te cosa l'episodio da cui parte praticamente. È un brano che abbiamo scritto nel 2000, è il più vecchio della scaletta, e... ma è un... avevo visto e letto la storia di Ilaria Alpi e insomma mi aveva dato un po' fastidio quello che era successo, insomma, più che altro per quello che ci stava sotto, insomma, per tutte le schifezze che sono state insabbiate in quell'episodio. Quindi la canzone, insomma, senza dichiararlo esplicitamente, è una sorta di colloquio d'amore con Ilaria Alpi e prima di tutto quello che è successo, insomma, prima ancora che lei scoprisse che c'era lo zampino di qualcuno dei nostri in quello che stava succedendo in Etiopia. Gazic ovviamente ha condiviso in pieno l'obiettivo della canzone e mi ha regalato un violino straordinario qui. Certamente, un pezzo molto bello, Dialogo di guerra, allora, con Alessandro Ducoli. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo passato le 22, Blu Radio Veneto, siamo con Alessandro Ducoli. Maurizio. Alessandro, questo era un violino meraviglioso di Michele e questa tua chitarra, mi pare che suonassi te la chitarra, è un po', alla, un po' con un suono di sitar, a me sembrava. Sì, considera che l'ambientazione la volevamo, essendo diciamo l'episodio, aveva qualche riferimento con l'Etiopia, volevamo dei suoni un po' più esotici. Esattamente. Qui abbiamo, dato questo, stile di arrangiamento alla cosa, però la chitarra qui non la suona, la suona Mario Stivala. Il brano, la musica è sua, scritta lui, è proprio uno dei suoi classici, diciamo, arrangiamenti da chitarra acustica. È un chitarrista con cui mi trovo molto bene, proprio perché ha una musicalità molto, molto elevata, insomma. Poi dopo il violino qui mi conferisce tutta quella tensione che secondo me il brano meritava, insomma. Giustamente hai detto una cosa perfetta, conferisce quella tensione, quel modo di suonare il violino da parte di Michele, conferisce proprio dall'esatta dimensione del pezzo, insomma. È stata un'esperienza bellissima sentirlo suonare questo brano, perché poi cioè, proprio ho detto voglio suonare questo e... è arrivato in studio, boom, in 10 minuti aveva già suonato, perché anche lui dice mi è piaciuto molto, è forte il Gazzic. Bravissimo, io ricordo che è venuto qua, ha suonato dei pezzi di Bubola, li ha suonati benissimo, proprio dava là a Bubola praticamente in tutti i pezzi, cominciava lui e poi si sviluppava il pezzo, era molto molto bravo, se niente da dire. Questo è il brano più serio, forse l'unico brano serio, tra virgolette. Sì, è l'unico brano veramente serio del disco, un po' di serietà dovevamo conservarla anche noi. Però ecco, era un brano che con Mario, con cui l'ho scritto, dicevo prima, è un po' che si diceva dobbiamo farlo, poi avere l'occasione di Ella De Bandini, che su questo tipo di sonorità anche con De André riusciva a muoversi molto molto bene eccetera, abbiamo deciso di inserirlo nella scaletta del disco. Magari ci stava anche proprio per il fatto che il disco doveva essere molto variegato e quindi avere anche un brano assolutamente spostato dalla linea di qualsiasi altro brano, insomma, del disco. E certo, noi all'epoca quando abbiamo sentito il disco, che è un po' di mesi fa, abbiamo puntato su un pezzo, abbiamo sentito molto Una nuova città, è il brano più commerciale. Sì, commerciale tra virgolette, l'abbiamo messo su parecchie volte. La necessità di fare questo disco di canzoni, non dico che potesse ascoltarlo anche mia sorella, perché abbiamo già descritto l'ambiente da Christian a Eric, no, Eric e poi non c'era, Christian sì. Un disco che fosse facile all'ascolto, nel senso che non volevamo, con Artemisia abbiamo fatto un disco di sonorità assolutamente latin, per cui è un disco che piace molto a quelli che già sono predisposti all'ascolto del latin. Brumantica era un disco quasi di puro jazz, per cui anche quello aveva delle sonorità un po' blindate tra virgolette. Questo qui invece volevamo proprio aprirlo, fare in modo che l'ascoltatore potesse essere il più variegato possibile, nascondendo qualche messaggio tra le righe, però sostanzialmente mantenendo un'impostazione leggera, insomma. Penso che ci siamo riusciti. Certo, è una nuova città, a queste non è una postazione leggera, però un pezzo che può essere ascoltato senza, può essere, può prenderti un po' abbastanza accattivante, non so cosa dici Alessandro, io la vedo, la sento così. Mi piace molto perché ci ho messo, diciamo, nella scrittura un po' delle contaminazioni che ho ricevuto dal cantautorato italiano, diciamo, posso dire quello più, non vorrei offendere nessuno, però quello un po' più elevato, insomma, quello di De Gregori degli anni 80, quel tipo di sound, comunque da cantautore impegnato, però anche, come si dice, leggero, insomma. Sì, impegnato ma leggero, cioè ascoltabile senza tanti problemi, ma fatto bene, fatto con una certa serietà, insomma. Speriamo. Certamente. Adesso sentiamo questa, una nuova città, Alessandro Duccoli. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Scritte sui muri. Sono stato un viaggiatore soltanto a metà. Sono stato un uomo buono e non ho avuto paura. Ero dentro alla stazione quando il treno partiva. Situazione non parlava o diceva. C'erano le luci accese, erano tutte cattive. Mentre il pomeriggio cambiava, poche le alternative. Mi vengono meglio, le altre le ho lasciate davvero da sole, erano un continuo sbaglio. Guardo la tua meraviglia preziosa ancora come fosse ieri. Niente delle cose che sono qui intorno dicono che cosa eri. Vanno tutte di là. Sono sempre un viaggiatore, meno della metà. Sono diventato cattivo per la necessità. Adesso mi vengono meglio, le altre le ho lasciate davvero da sole, erano un continuo sbaglio. Guardo la tua meraviglia preziosa ancora come fosse ieri. Niente delle cose che sono qui intorno dicono che cosa eri. Dentro il pomeriggio di una nuova città cerco una collocazione per la mia situazione. Mentre faccio finta di niente, non è mica importante. Passeggio come tutta la gente che arriva e che va. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ultimi minuti con Alessandro Duccoli su Blu Radio Veneto, 22:15 minuti. Maurizio. E Alessandro, questo è un bel pezzo, poteva essere sicuramente il pezzo trainante dell'album, scritto bene, arrangiato bene, non è un easy listening, è un pezzo fatto bene, anche se può essere un easy listening. Certo, certo, io sono stato molto contento di queste canzoncine, chiamiamole così, anche se può suonare spregiativo, perché proprio come ti ripeto, l'idea di fare un disco leggero era proprio dominante in quest'anno. Forse abbiamo messo troppo cervello nei dischi precedenti e abbiamo un po' perso il filo conduttore delle canzoni, nel senso che la canzone deve essere comunque orecchiabile. Almeno adesso sono in questa fase. Il prossimo disco tornerà ad essere abbastanza ostico dal punto di vista melodico e un po' più fuori di testa con gli arrangiamenti. Però questa era l'idea. E Una Nuova Città è stata una delle prime canzoni scelte per il disco, proprio subito, appena mi ha mandato le basi con le nuove idee di canzoni, perché anche questo brano è stato scritto da Mario Stivala. Io gli ho detto facciamo questa e niente, io gli metto poi sulle parole, poi rivediamo alcuni ritornelli o alcuni passaggi che mi servono per esprimere qualcosa anche a me e basta. Questo è uno dei primi brani che abbiamo scelto, proprio doveva essere addirittura il titolo del nuovo disco, però alla fine abbiamo scelto Piccoli Animaletti perché era più certo. A proposito di questo, tu avevi detto prima, facciamo sentire quel pezzo che dura un minuto e poi facciamo sentire, io vorrei far sentire Piccoli Animaletti, perché? Perché c'è un coro di bambini diretti da Barbara Bellotti, mi pare. Esatto, è stata un'esperienza la più, diciamo, come si dice, la più difficile della mia vita. Come sono andate così? Dopo 6 mesi con il fonico Valerio Gaffurini, che è stato un santo per la realizzazione di questo disco, perché troppe canzoni e abbiamo rischiato più di una volta di abbandonare il progetto. L'idea era quella di fare un doppio aggiungendone altre 2, però concentrarsi prima su 8 canzoni, perché non riuscivamo proprio a far suonare 3 canzoni, non riuscivamo proprio. L'ultimo giorno che facciamo il primo ascolto, diciamo, tecnico della scaletta, non funzionava, e c'era proprio la title track che aveva qualcosa che non andava, e Valerio ha avuto l'idea: mettiamoci un coro di bambini. Conosci mica nessuno che ha un coro di bambini? Io certo che conosco, però ecco, non so, sono disponibili. Ho chiamato la Barbara Bellotti, che è la direttrice del coro arcobaleno del paese dove sto, e lei mi ha detto va bene, mandami le canzoni. E io non pensavo che la cosa andasse in porto, perché pensavo fosse un gioco, e poi alla fine dico ma sì, è stato un... Invece mi sono presentato in una stanzetta dove fanno le prove, dove abbiamo registrato i bambini, 24 bambine. Io avevo portato le Coca-Cola, le aranciate, le pastine, tutte quelle robe lì, e abbiamo fatto un pomeriggio che è sembrato come un turno di 14 ore, che diventano ingestibili dopo mezz'ora che prendono confidenza con i personaggi. Nemmeno il russo che ha esordito dicendo io sono russo, mangio bambini, nemmeno il russo è riuscito a far paura alle ragazze, e è stato bellissimo, devo confessare anche emozionante a un certo punto, perché non mi è mai capitato. Poi figurati, io ero lì proprio come terzo incomodo, cioè dovevo solo ascoltare, perché loro hanno cantato sulla base già registrata. In più abbiamo fatto anche il video di un'altra canzone dove ci sono i bambini, che è Rattus, e è stato bellissimo. Insomma, alla fine, se andate su YouTube a vedere Rattus, ci sono tutte le bambine che cantano. Bellissimo. Insultano, ce n'è una che dice che la canzone è brutta. Ma no! Sì, nel video l'abbiamo messa, perché io mi sono seduto spontanea per iniziare a conoscerli, gli ho detto ma ti piace la canzone? E lei mi ha detto no, è brutta. È stato l'inizio della fine, però devo dire che è stata vincente la cosa. Poi abbiamo messo anche tutte le fotografie del coro nel libretto. Sì, è vero, è una cosa molto simpatica. Insomma, è stata un'esperienza meravigliosa, e tra l'altro devo dire che alla fine hanno completato in maniera esatta il cerchio del disco. Insomma, cioè alla fine, quando abbiamo riascoltato la scaletta che un mese prima non funzionava, abbiamo detto bon, il disco è pronto, lo stampiamo. È stato bello, molto bello. Sentiamo Piccoli Animaletti allora. Ok. Blu Radio Sera. Dopo un pomeriggio di vento e di pioggia battente, un raggio di sole tardivo ti illumina il viso. Osservo 2 lumache sul muro, il passare di un'ora e del tempo. L'acqua torna ad essere un fiume di prezioso silenzio. diversa a tutta la terra, che hanno avuto per davvero la forza di fermare la pioggia, comandati dalla stessa arroganza di due zampe da uomo. Voglio solamente pensare che non servono a niente, che mi basta stare fermo e guardarti camminare tra i gelsi, mentre il pomeriggio comincia a diventare un ricordo, il giorno lascia il posto alla sera in un respiro più corto. Noi non siamo esseri umani, imperfetti nelle solite cose, siamo diavoli e difetti normali, sensazioni e sentimenti, siamo solo animali. Noi non siamo gli esseri umani, siamo niente che non sia più importante, siamo solo le creature animali, sensazioni e sentimenti davvero normali. Niente di nuovo, di stupefacente, niente di niente, nemmeno la gente. Noi siamo niente che non sia vivente, siamo niente di buono, noi non siamo importanti, allora niente perduno, non saremo mai santi, allora niente di niente, non ci sono innocenti, siamo niente di niente, ma non è sufficiente, allora niente di niente, più niente di niente. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, ormai siamo al termine dell'appuntamento con Blu Radio Sera del martedì e siamo stati in compagnia di Alessandro Ducoli, al quale vorrei chiedere le sue eventuali prossime date e soprattutto se ce ne saranno dalle nostre parti qui in Veneto. E in Veneto no. Vabbè, niente. Trovate qualcuno che ha bisogno di concerti per qualche serata, io verrei molto volentieri. Adesso abbiamo una serata a Pisogne in provincia di Brescia domenica prossima, in cui presentiamo quel progetto di cui parlavo prima, scritto con il Russo. Poi ho una serata a fine settembre, e a fine agosto, e dopo per settembre in teoria dovrei iniziare a registrare Sandro Piteco, per cui non ho ancora tempo per organizzare. Però se mi chiamano per suonare io vengo volentieri, soprattutto a Padova, perché è città dove ho studiato e ho, oh, diciamo, è per forza di cose rimasta nel cuore, soprattutto gli Spirit. No, comunque tu giri più che altro le tue zone, il Bresciano. Hanno, diciamo, da Milano a Brescia, insomma, quell'asse lì mi muovo, anche perché comunque non avendo un manager, eccetera, eccetera, dovrei mettermi in testa di fare una cosa un po' più seria anche dal punto di vista manageriale, ma non ho ancora messo testa in questa cosa. Ma no. Speriamo di farlo il prima possibile, però mi avete promesso che vengo a suonare in radio. Certo. Un mercoledì sera, sì. Un mercoledì a tua disposizione. 10:30. Esatto. Tutto in diretta e tutto dal vivo. In diretta, vengo con il Russo e facciamo un delirio. Benissimo. Io lo propongo, poi vi richiamo e fissiamo il mercoledì. Certo, ben volentieri. E per chiudere, come possiamo raggiungerti? Hai un sito, Facebook, queste cose qui? www.ducoli.eu EU, dove c'è scritto tutto, anzi adesso sto aggiornando una data che è in sospeso, però è tutto aggiornato lì, insomma, e c'è scritto, c'è qualche aneddoto, ci sono gli MP3 in download gratuito e poi c'è scritto anche come contattarmi se qualcuno vuole i dischi. Io applico la formula del porta a porta, in un certo senso. Come Jim Morrison, 5 contro 1, tu ne paghi uno, io te ne do 5. Però. Non so se i Doors l'avevano interpretata così, però Five to One era un'altra cosa, credo. Sì. Beh, vabbè. E basta, io vi ringrazio, è stato meraviglioso e spero che ci risentiamo prima possibile. Certamente, e ci salutiamo col pezzo di un minuto che volevi far sentire, mi pareva. Sentire il brano chitarra e voce, perché poi alla fine abbiamo inserito anche un brano chitarra e voce registrato in 6 minuti, però ecco, la canzone dura un minuto solo, che si intitola Un Germano Irreale, e questo brano era inizialmente scritto per il progetto Sandro Piteco. Okay. Come aveva una connotazione zoologica molto forte, l'abbiamo spostato in Piccoli Animaletti, però ecco, per anticipare un po' quali saranno le atmosfere e le sonorità di Sandro Piteco, credo che sia, se è un'informazione che può servire, però credo che sia efficace questa canzone. Ok. Alessandro, alla prossima e speriamo di averti qui in radio. Grazie di cuore, viva. Grazie a te. Tutto il festin bueo. Ma no, grandissimo. Alla prossima. Ciao, grazie Alessandro. Blu Radio Sera. 3, 4. Una bufera d'amore, passano mille stagioni, io sono niente ma provo a cercare la mia conseguenzialità, ma i fiori hanno facce migliori di quelle che il giorno regala la mia. Non danno nessuna risposta che dia una misura minore alla tua. In questo disastro di aprile mi sento un germano irreale, finito nell'acqua non so galleggiare, mi sento che sto per finire. Sul greto del fiume la rosa canina rivolge le guance alla luce. Un respiro di vento trasforma le foglie nell'attimo della tua voce. Una bufera d'amore, lasciami qui per provare. Lascia le onde del fiume cullare la piccola mia ingenuità. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.